Quarta parte, Regina di Svezia. Parigi, febbraio 1818. Stavolta mi è davvero successo qualche cosa. Sebbene lo sapessi da più anni che un giorno sarebbe avvenuto, non riuscivo mai veramente a immaginarmelo, ma ormai ci sono arrivata e quel che è fatto è fatto. Ero seduta al pianoforte e cercavo di eseguire per intero una nuova melodia che Oscar ha composto. Proprio buttati via, pensavo, i bei quattrini che Gian Battista ha speso per le mie lezioni di pianoforte e di contegno, e quasi mi rompevo le dita quando mi fu annunciato l'ambasciatore di Svezia. Non trovai la cosa affatto straordinaria. L'ambasciatore viene spesso a farmi visita. Il pomeriggio era grigio e piovoso, fatto apposta per prendere il tè, ma nel momento in cui egli entrò subito me ne accorsi. Si fermò dietro di lui, la porta si richiuse, eravamo proprio soli. E lui stava sempre presso la porta e non si muoveva. Tra noi c'era tutta la stanza. Feci per corrergli incontro e lui allora si inchinò. Ah, provai una stretta al cuore. Quell'inchino era così profondo, così solenne. Poi notai la fascia di crespo nero al suo braccio e sentii che il sangue mi saliva alla faccia. Maestà? Lentamente si drizzò. Maestà, vengo a recarle un triste annuncio. Re Carlo ci ha lasciati il 5 febbraio. Io ero come impietrita. Quel piccolo re tremolante lo conoscevo appena, ma la sua morte significa... Sua maestà mi ha incaricato di comunicare tutti i particolari a vostra altezza e di rimettervi questa lettera. Non mi mossi. L'ambasciatore mi si avvicinò e mi porse un plico suggellato. Maestà, prego, insistette. Accomodatevi, barone, mormorai, e anch'io mi abbandonai sulla sedia più vicina. Le mie dita tremavano mentre rompevo il largo sigillo. Era un foglio di grande formato sul quale Gian Battista aveva scarabocchiato queste parole. «Carissima, tu sei ora regina di Svezia. Ti prego di comportarti in conformità. In fretta il tuo GB. E più sotto, PS, non scordarti di distruggere subito questa lettera». «Comportati in conformità». Lasciai cadere il foglio e sorrisi. A un tratto mi accorsi che l'ambasciatore mi stava osservando, l'ambasciatore col suo segno di lutto. In fretta cercai di fare una faccia dignitosamente triste. «Mio marito mi scrive che adesso sono regina di Svezia», dissi solennemente. L'ambasciatore allora incominciò a sorridere. «Vorrei sapere perché». «Sua maestà è stato proclamato dagli araldi del regno il 6 febbraio re Carlo XIV Giovanni di Svezia e Norvegia e la consorte di sua maestà, regina Desideria». «Oh, Gian Battista non avrebbe dovuto permetterlo. Voglio dire che mi si chiami Desideria», dichiarai. L'ambasciatore non seppe che cosa rispondermi. Come è andata allora? Domandai da ultimo. Il vecchio signore si era serenamente addormentato. Ebbe un attacco apoplettico il 1 febbraio. 2 giorni dopo si seppe che la sua fine era imminente. Sua maestà e sua altezza, il principe ereditario, hanno vegliato nella camera dell'infermo. Alle 11:15 di sera tutto era finito. Cercai di immaginarmi tutto questo. La reggia di Stoccolma, la camera del malato piena di gente, Gian Battista e sua altezza il principe ereditario, Oscar. Chinai la testa, provai un improvviso senso di freddo e poi la regina vedova e la principessa Sofia Albertina uscirono dalla camera del defunto, anche gli altri si ritirarono, solo sua maestà indugiò ancora. Sua maestà espresse il desiderio di essere lasciato solo col morto. L'ambasciatore ebbe un lieve brivido, poi continuò a parlare rapidamente. Prima della mezzanotte, sua maestà diede udienza ai membri del governo, ai rappresentanti dell'esercito e ai più alti funzionari per ricevere il loro giuramento. Questa cerimonia è prevista dalla Costituzione. Nella mattinata, sua maestà fu proclamato re dagli araldi del regno in Svezia e Norvegia, poi... Sua maestà si recò all'ufficio funebre in chiesa. Dopo il servizio divino, sua maestà si fece dare un cavallo e ricevette il giuramento delle truppe di guarnigione a Stoccolma. Intanto la popolazione si era assemblata davanti alla reggia per rendere omaggio a sua maestà. Il giorno appresso, sua maestà salì per la prima volta sul trono nel Parlamento per prestare il suo giuramento di re. Mentre sua maestà metteva la mano sulla Bibbia per giurare, il principe ereditario Oscar cadde in ginocchio davanti a suo padre. «Vostra maestà non può immaginarsi quanto entusiasmo regni in Svezia. Tuttavia la cerimonia dell'incoronazione non sarà celebrata, per desiderio di sua maestà, che l'11 maggio». Davvero l'11 maggio? Ha forse Sua Maestà una speciale ragione per scegliere proprio questo giorno? L'11 maggio si compieranno esattamente 25 anni da quando il soldato Giambattista Bernadotte venne promosso sergente della Repubblica Francese. È stato un grande giorno nella vita di mio marito, Eccellenza. Sì, certo, Maestà. Ah, suonai e feci venire il tè. Entrò allora Marcellina per aiutarmi a servire. Bevemmo la prima tazza in silenzio. Ancora un po' di tè, Eccellenza? Oh, troppo gentile, Maestà. Per lo spavento la povera Marcellina si lasciò sfuggire una tazza di mano. I coci tintinnarono e poco dopo l'ambasciatore si accomiatò. Il re di Francia vi farà certamente una visita di condoglianza, mi disse ancora. I coci portano fortuna, sospirava Marcellina, guardandomi stranamente intimorita. Forse, perché mi guardi in codesta maniera? Sua Maestà, la regina di Svezia e Norvegia, disse lentamente, senza cessare di guardarmi stupefatta. Domani mattina dovrò ordinarmi subito degli abiti da lutto, mi ricordai. Poi, lentamente mi avvicinai al pianoforte. Guardai le note scritte da Oscar, principe ereditario di Svezia e Norvegia. Feci passare una volta ancora la mano sulla tastiera e infine chiusi il coperchio. Non suonerò mai più il pianoforte, Marcellina. E perché, zia? Perché suono troppo male per una regina. Adesso non potremo più andare dalla zia Giulia. Naturalmente tu dovrai partire per Stoccolma. La zia Giulia ne sarà quanto mai addolorata. Faceva tanto conto sulla tua visita. Giulia Bonaparte, espulsa dalla Francia come tutti coloro che portano il nome Bonaparte. La prima settimana dopo la partenza di Napoleone ha potuto trascorrerla ancora a casa mia, ma poi le ho dovuto fare le valigie e accompagnarla con le sue figlie alla frontiera belga. Da allora, ogni 2 mesi, ho indirizzato una petizione a Luigi XVIII pregandolo di consentire il ritorno di Giulia e ogni 2 mesi ho ricevuto un cortese, anzi cortesissimo rifiuto. Così me ne vado ogni tanto a Bruxelles per consolare e assistere Giulia. Ogni volta che arrivo, ella si lagna di una nuova infermità e trangugia tante polverine che a me viene male allo stomaco soltanto a vedere. Il cognato Giuseppe non è stato a guardarla per molto tempo. Ha assunto il titolo di Conte Surville ed è partito per l'America. Là si è comprato una fattoria nei pressi di Nuova York. Dalle sue lettere si vede che è contento. La vita che conduce adesso gli ricorda la sua giovinezza e il poderino materno. Magra e amareggiata, Giulia si trascina dal divano al letto e dal letto al divano. Come mai può pensare Giuseppe che lei abbia a migliorare al punto da poterlo raggiungere? Io le accarezzo le mani, le applico le pezze sulla fronte. Giulia, noi abbiamo vissuto insieme tanti anni. Quando hai cessato di amare Giuseppe? In quella prima settimana dopo i 100 giorni. Ortensia è venuta a prendere i suoi figli, l'accompagnava il conte Flahaul, erano in partenza per la Svizzera. Ortensia era calma e ragionevole, sembrava quasi contenta. Di là dal capo di Buona Speranza non ci sono donne. Una gelosia durata tutta una vita si è spenta. Solo all'ultimo momento, io stavo appunto spingendo nella carrozza suo figlio minore, il suo sguardo si fece quasi allucinato. Ma uno tornerà e sarà terzo, mormorò. Di chi? E di che terzo state parlando? Domandai stupita. Ma di uno dei miei figli, madame, sorrise furbescamente. Di Napoleone III. E qui, come scuola delle donne, facciamo una nota storica, perché in effetti Ortensia ebbe ragione di avere questa visione, anche se naturalmente è solo una creazione dell'autrice Annemarie Selinco, perché il figlio di Napoleone, ossia Napoleone II, non tornò mai in Francia e morì a 21 anni di tisi presso il castello di Schönbrunn in Austria. Quindi il Napoleone III, ossia il figlio di Ortensia, divenne effettivamente Napoleone III con la restaurazione del Secondo Impero e riconoscendo, nominandosi Napoleone III, riconobbe come legittimo il titolo del figlio di Napoleone come Napoleone II. Riprendiamo la lettura. Ortensia ha potuto felicemente riparare in Svizzera, ma non a tutti è riuscita la fuga. Non al maresciallo Ney, perché questa volta Luigi XVIII ha considerato il proprio ritorno non più come una grazia della sorte, ma come un diritto. Mentre ansimava, su per la scalinata delle Tuilerie si ricordò della porta di servizio. La piazza davanti alla reggia era vuota e dappertutto dalle finestre pendevano i colori della Repubblica. Egli si sedette allo scrittoio e chiese le liste. Ma le liste con i nomi dei repubblicani e dei bonapartisti erano scomparse negli ultimi 100 giorni. Allora si fece annunziare Fouché. Non soltanto egli portava le liste, ma vi aveva aggiunto dei nomi nuovi per completarle. E con quelle liste Fouché gli consegnò la Francia. Un governo repubblicano non avrebbe a lungo andare tollerato Fouché in nessun ministero, così egli concluse il suo mercato con i Borboni. Li salutò come membro del governo provvisorio a Parigi e fu nominato perciò ministro della polizia. Ciò che soprattutto premeva a Luigi XVIII era d'avere in mano le liste. In quel frattempo, il maresciallo Ney stava raccogliendo i resti dell'esercito e li conduceva da Waterloo in Francia. Anche il suo nome si trovava nelle liste. Non era stato lui a promettere che avrebbe arrestato Napoleone e lo avrebbe rinchiuso in una gabbia? Ney cercò di riparare in Svizzera, ma fu arrestato durante la fuga. Re Luigi lo deferì a un tribunale di guerra, ma questo lo mandò assolto. Luigi allora convocò la Camera dei Pari di Francia, l'assemblea dell'antica nobiltà e degli emigrati rimpatriati. Il maresciallo Ney, figlio di un bottegaio, fu condannato a morte per alto tradimento. Quanti visi si chinavano su di me dalle tenebre, visi di fucilati, di incarcerati, di esiliati. Luigi cancellava un nome dopo l'altro dalla lista. Da ultimo non ne rimase che uno. Egli cancellò anche questo e mandò in esilio il suo ministro della polizia, Fouché, duca d'Otranto. Giulia a Bruxelles, Giuseppe in America, gli altri Bonaparte in Italia. Ma io sono ancora qui e Re Luigi vuole venirmi a fare visita. Improvvisamente fui presa da una tremenda agitazione perché non sapevo dove fosse finita la lettera di Giambattista. Forse l'ho lasciata giù in salotto e devo comportarmi in conformità. In conformità. Sentii la lettera sotto la guancia, poi entrò Maria e accese i lumi. Adesso mi sgriderà perché me ne sto coricata sulla coperta di seta con le scarpe ai piedi. Ma Maria non mi sgridò, mi avvicinò soltanto il lume alla faccia e mi contemplò devotamente, proprio come già mi aveva guardata Marcellina. Non arrabbiarti, mi tolgo subito le scarpe. Mi misi seduta, confusa. Tua nipote mi ha detto tutto, ma avresti anche potuto raccontarmelo tu stessa, brontolò Maria, offesa. So bene quel che tu pensi, che il mio povero papà non ne sarebbe affatto contento, lo so già, non occorre che tu me lo dica. Ah, alza le braccia, ti sfilerò il vestito, Eugenia. Alzai le braccia. Lei mi tolse l'abito. Così, e adesso sta su ben dritta e tieni alta la testa, Eugenia. Non importa quel che si è, ma come si è, anche se sei una regina. Cerca almeno di essere una buona regina. Quando partiamo per Stoccolma? Io ripresi la lettera e ancora una volta lessi quei segni frettolosi, scarabocchiati da Giambattista in tanta fretta, pieni del terrore che io possa non essere degna di lui. Poi presi una candela e avvicinai il foglio alla fiamma. Dunque, quando partiamo, Eugenia? Fra 3 giorni. Così non mi resterà più il tempo per ricevere Re Luigi, ma partiremo per Bruxelles, Maria. Giulia ha bisogno di me e a Stoccolma io sono proprio inutile. Ma non ci si può far incoronare senza essere presenti, protestò Maria. Sembra di sì, altrimenti mi avrebbero invitata all'incoronazione. L'ultimo pezzettino della lettera si incenerì. Io andai a prendere il mio diario e per la prima volta, dopo tanto tempo, incominciai di nuovo a scrivere. Stavolta mi è davvero successo qualche cosa. Sono regina di Svezia. Parigi, giugno 1821. La lettera stava tra molte altre sulla tavola della mia coalizione della mattina. Il sigillo verde cupo ostentava lo stemma che oggi è proibito in tutto il mondo. Dapprima credetti di sognare. Esaminai quel sigillo da tutte le parti. Era davvero una lettera con lo stemma dell'imperatore e indirizzata a Sua Maestà, la regina desideria di Svezia e Norvegia. Finalmente apersi la strana missiva. Madame, ho ricevuto la notizia che mio figlio, l'imperatore dei francesi, è morto il 5 maggio di quest'anno nell'isola di Sant'Elena. Alzai gli occhi. Il cassettone, il comodino, lo specchio dalla cornice dorata, nulla era mutato. Il ritratto di Oscar bambino, il ritratto piccolo di Giambattista, tutto era come prima. Non riuscivo a rendermene ragione. Dopo un poco lessi fino alla fine la lettera. Nell'isola di Sant'Elena. I suoi resti mortali sono stati sepolti per ordine del governatore dell'isola con gli onori militari dovuti a un generale. Il governo britannico ha vietato che si erigesse una tomba col nome Napoleone. È stata autorizzata soltanto la scritta Generale N. Bonaparte. Perciò io ho disposto che il sepolcro rimanga senza alcuna iscrizione. Detto queste righe a mio figlio Luciano, che spesso si trattiene a Roma, la mia vista in questi ultimi anni si è sempre più indebolita e ora purtroppo l'ho perduta del tutto. Luciano ha incominciato a leggermi le memorie di mio figlio che egli ha dettato a Sant'Elena al conte di Montolon. In esse si trova questa frase: Désirée Clary è stata il primo amore di Napoleone. Voi dunque vedete che mio figlio non ha mai cessato di ricordare il suo primo amore. Poiché mi si dice che il manoscritto sarà presto dato alle stampe, vi prego di farci sapere se questa frase dovrà essere omessa. Noi comprendiamo di dover usare riguardo alla vostra alta condizione e ci conformeremo volentieri al vostro desiderio. Mentre vi mando i rispettosi saluti di mio figlio Luciano, rimango sempre la vostra devota. La vecchia cieca aveva a posto di sua mano la firma, la lettera, era appena leggibile, diceva in italiano Letizia, madre di Napoleone. Durante la giornata domandai a mio nipote Mario in che modo fosse giunta a casa mia la lettera con lo stemma verde. Poiché ho affidato a Mario l'incarico di maresciallo di corte, egli è ben informato di tutte queste cose. L'ha portata un addetto all'ambasciata di Svezia. La lettera è stata consegnata all'incaricato d'affari di Svezia a Roma. Hai notato lo stemma? No, era una lettera importante. Era l'ultima lettera con lo stemma dell'imperatore. Ti pregherei di rimettere una somma di denaro all'ambasciatore britannico, pregandolo di far deporre a nome mio una corona di fiori sulla tomba di Sant'Elena. Sulla tomba senza epigrafe, dovrei dire. Zia, non sarà possibile esaudire il tuo desiderio. Non ci sono fiori a Sant'Elena. Il tremendo clima dell'isola inaridisce tutte le piante. Credi che Maria Luisa sposerà adesso il conte Neipperg, zia? Si dice che abbia già 3 bambini da lui, disse Marcellina. Oh, l'ho già sposato da un pezzo, figlia mia. Tale Iram me lo raccontò una volta. Sembra che il Papa abbia dichiarato non valide le sue prime nozze. Beh, e il figlio di quel matrimonio? Dopo la prima abdicazione dell'imperatore, il re di Roma è stato per 2 o 3 giorni chiamato Napoleone II in tutti gli atti ufficiali francesi, intervenne con fervore Mario. Quel figlio si chiama adesso Franz Josef Karl, duca di Reichstadt, figlio di Maria Luisa, duchessa di Parma. Tale Iram mi ha perfino fatto vedere una copia del suo brevetto ducale. E suo padre non vi è nominato? No, stando ai documenti il padre è ignoto. Oh, se Napoleone avesse saputo ciò che l'attendeva, incominciò Marcellina. Lo sapeva, dissi soltanto. Poi mi sedetti allo scrittoio. Un'isola senza fiori, un'isola dove tutto inaridisce. Il nostro giardino di Marsiglia, il prato, sì, il prato. Incominciai a scrivere a sua madre. Zia Giulia ha accennato che tu allora, Marcellina balbettò, o piuttosto che lui, lo potrai leggere nelle sue memorie, suggellai la lettera. Non vi sarà tolto nulla. In una camera d'albergo da Aquisgrana, giugno 1822. Che ancora mi sia concesso nella vita di provare tutta la dolcezza e l'ansia e l'impazienza di un primo convegno. Così pensavo stamattina davanti allo specchio. Le dita mi tremavano mentre mi davo un po' di rossetto sulle labbra. Non troppo, mi ammonii. Ho già 41 anni, non deve credere che mi voglio ringiovanire, ma sarei tanto contenta di piacergli ancora. E quando lo vedrò? Domandai per l'ennesima volta. A mezzogiorno, zia, nel tuo salotto. Rispose Marcellina, paziente. Ma lui arriva già nelle prime ore del mattino, non è vero? Poiché non si è potuta fissare con esattezza l'ora del suo arrivo, la visita è stata fissata per mezzogiorno, zia. E poi lui farà colazione con me? Naturalmente, accompagnato dal suo ciambellano Carlo Gustavo Löwenhielm. Lo zio del mio Löwenhielm? Anche il mio Löwenhielm si chiama Gustavo. Recentemente me lo hanno mandato da Stoccolma in sostituzione del conte Rosen che è rimpatriato. Ma è così imponente e inavvicinabile che quasi non oso parlargli. Oltre lui non saremo presenti che Mario ed io, perché possiate discorrere tranquillamente, zia. Il mio Löwenhielm, il suo Löwenhielm, Marcellina, Mario. No, no e poi no. Presi una decisione. Marcellina, sii tanto gentile da mandarmi qui il conte Löwenhielm. Arriverà, riflettei, poi si laverà le mani e dopo il lungo viaggio sentirà il bisogno di fare un po' di moto. E per di più non è mai stato ad Aquisgrana. L'albergo si trova in prossimità del Duomo. Vorrà, come qualunque altro turista, visitare il Duomo. Dovete soltanto fare in modo che ne sia informato vostro zio. Vostro zio dovrà ritirarsi non appena mi vedrà. Me lo promettete? Il mio Löwenhielm era scandalizzato. Il vantaggio dei preparativi d'etichetta sta appunto in ciò, che si evitano le sorprese, mi dichiarò. Io non mi diedi per vinta finché lui non sospirò. Come comandate, maestà? Poi mi misi il cappello col velo da viaggio. Il velo mi copriva le guance. Me lo accomodai ben stretto sotto il mento. Per di più, nel Duomo regna la semioscurità, pensai, e uscii sola dall'albergo. Questa è l'ultima definitiva sorpresa della mia vita, pensavo, mentre mi dirigevo verso il Duomo. Il primo convegno con un uomo ancora può significare tutto, o anche niente. Tra una mezz'ora tutto sarà definito. Mi sedetti in un banco del coro e involontariamente giunsi le mani. 11 anni. Sono molti, pensavo. Forse senza accorgermene sono diventata una signora anziana. Comunque lui intanto si è fatto adulto, un giovane che è stato mandato a compiere un viaggio all'estero perché possa trovarsi una fidanzata alle corti dei regnanti d'Europa. Gli hanno dato per compagno il coscienzioso Carlo Gustavo Löwenhielm, che a suo tempo ha atteso all'arrivo in Svezia il padre di lui per istruirlo nel cerimoniale della corte svedese. Ma io violerò il cerimoniale di corte. Questa mattina visitavano il Duomo innumerevoli turisti. Si pigiavano sulla lastra di pietra del sepolcro di Carlo Magno, che probabilmente non è affatto il suo sepolcro. Io li seguivo ad uno con gli occhi. Quello? E il mio cuore batteva. O quel piccolino dai piedi piatti laggiù. Non so che cosa provino le madri che vedono crescere il loro figliuolo, che gli danno la buonanotte tutte le sere, che gli baciano i primi radi peli della barba e sanno che è innamorato per la prima volta. Infatti, di colpo incomincia a curarsi le unghie. Tutto questo io lo ignoro. Io aspetto un uomo simile a quello che ho sognato per tutta la vita e che non ho mai incontrato. La più assoluta confidenza, un irresistibile fascino, tutto, tutto io mi attendo dal mio figlio sconosciuto. Ma lo riconobbi subito, e non perché lo accompagnava quel Löwenhielm che dai miei lontani giorni di Stoccolma non è affatto cambiato, ma per il suo contegno, per il suo modo di camminare, per il lieve movimento del capo con cui egli sussurrò qualche cosa a Löwenhielm. Indossava un abito borghese scuro ed era alto quasi come suo padre, soltanto più esile, sì, molto più esile. Mi alzai e gli andai incontro, come in sogno, senza riflettere, come se dovessi parlargli. Stava davanti alla lapide del cosiddetto sepolcro di Carlo Magno, che si curvava un poco per leggere l'iscrizione. Toccai il braccio del suo compagno. Löwenhielm alzò la testa e si ritrasse senza parlare. «È questa la tomba di Carlo Magno?» suonò la mia voce in francese. Era la più stupida domanda di questo mondo. Il nome era scritto sulla lapide. Come vedete, madame, rispose lui senza levare lo sguardo. So che il mio contegno è sconveniente, ma io desidero proprio di fare la conoscenza di vostra altezza, mormorai. Lui alzò la testa. Dunque sapete chi sono, madame? Gli occhi scuri, impavidi della sua infanzia, le stesse folte ciocche di capelli, le mie ciocche, Dio buono. Ma un paio di inattesi e un po' ridicoli baffetti che gli si era arricciato all'insù. Vostra Altezza è il principe ereditario di Svezia ed io sono, per così dire, una compatriota. Mio marito abita a Stoccolma. Mi arrestai. Volevo rivolgere una preghiera a Vostra Altezza, ma non è una cosa così facile. No? Si guardò intorno. Non so perché il mio compagno mi abbia improvvisamente piantato così, mormorò. Ma ho ancora un'ora di tempo, se me lo consentite. Madame, vi accompagnerò volentieri. Sorrise fissandomi negli occhi. Posso, madame? Assentì. Avevo un nodo in gola. Mentre ci avviavamo verso l'uscita, vidi il Löwenhielm di Oscar far capolino dietro una colonna. Grazie al cielo, Oscar non se ne accorse. Senza scambiare una parola, passammo oltre il Fischmarkt, davanti alla cattedrale, attraversammo una larga strada e svoltammo al fine in una viuzza. Io mi tirai ancora di più il velo sulle guance perché sentivo che Oscar, di fianco a me, mi guardava. Si fermò davanti a un piccolo caffè con due o tre miseri tavolinetti e due palme polverose piantate in vasi di terracotta. «Posso offrire un bicchiere di vino alla mia leggiadra compaesana?» Io guardai inorridita le orribili piante nei due vasi. «Questo non va», pensai, e arrossii. «Non vede che sono una signora anziana? O è solito Oscar invitare così qualunque occasionale conoscenza femminile? Lo fa soltanto perché è sfuggito al suo tremendo Löwenhielm?» Mi sentii più tranquilla e feci cenno di sì. «Qui non è molto elegante, ma almeno potremo discorrere indisturbati», disse con grande cortesia. Poi domandò con mio grande sgomento: «Cameriere, avete dello champagne francese?» «Ma non ora, di mattina», disapprovai spaventata. «Perché no? A qualunque ora, quando si tratta di festeggiare qualche cosa», sorrise lui. «Ma non c'è nulla da festeggiare», protestai. «Ma sì, la vostra conoscenza, madame. Non potreste scostare un poco quel brutto velo perché io possa vedere il vostro viso? Non vedo che la punta del naso». «Oh, il mio naso è una grande calamità», dissi io. «Quando ero giovane me ne affliggevo molto. Com'è strano che nessuno abbia il naso che desidera avere». «Mio padre ha un naso fantastico, sporgente come un becco d'aquila. La sua faccia non è in fondo che naso e occhi». Il cameriere portò lo champagne e lo servì. «Skål, compaesana sconosciuta. Francese e svedese insieme, non è vero?» «Proprio come vostra altezza», dissi io. Lo champagne era troppo dolce. «No, io sono soltanto svedese, madame», disse in fretta, «ma anche norvegese. Questo champagne è pessimo, non sembra anche a voi?» «Oh sì, troppo dolce, altezza». «A quanto pare abbiamo gli stessi gusti, madame. Me ne rallegro. La maggior parte delle donne preferisce i vini dolci come lo zucchero. La nostra Koskull, per esempio». Respirai forte. «Che cosa significa questo, la nostra Koskull?» «La damigella di corte, Mariana de Koskull, un tempo raggio di sole del defunto re, ora la prediletta di papà. E se avessi accondisceso al suo desiderio, la mia amante. Che cosa vi sorprende, madame?» «Che lo raccontiate ad un'estranea», dissi arrabbiata. «Ad una compaesana? Alla defunta regina Edvige Elisabetta non garbava molto i primi spassi del suo consorte. La Koskull soleva fargli lettura e lui era beato quando poteva intanto accarezzarle il braccio. Papà ha accettato il cerimoniale della corte di Svezia così com'era. Non ha voluto cambiare nulla, probabilmente per non urtare nessuno, e ha accettato anche la Koskull». Io lo fissai, smarrita. «Dite sul serio?» «Madame, mio padre è l'uomo più solitario che io conosca. Mia madre non lo ha incontrato da molti anni. Papà lavora 16 ore al giorno e passa le tarde ore della sera esclusivamente in compagnia di uno o due amici degli anni in cui era principe, per esempio il conte Brahe, se questo nome può dirvi qualche cosa. Anche la Koskull suole intervenire con una chitarra e canta a papà delle canzoni conviviali svedesi. Le canzoni sono anche molto allegre, ma lui purtroppo non ne capisce il testo. E balli di corte, ricevimenti? Non si può tenere una corte senza feste». «Papà ci riesce. Non dimenticate, madame, che alla nostra corte non c'è una regina». Bevi lentamente il mio champagne. Egli mi riempì di nuovo rapidamente il bicchiere. «Tutto cambierà quando si sposerà vostra altezza», mormorai. «Oh, credete che una giovane principessa potrà trovarsi bene in un enorme, gelido castello dove il re rifiuta di ricevere chi che sia, tranne i suoi consiglieri di stato, i suoi vecchi amici, madame? Mio padre è diventato piuttosto strano. Un re che non capisce la lingua del paese è dominato dal morboso timore di essere rovesciato. Sapete a che punto è arrivato? Mio padre sopprime senz'altro i giornali che pubblicano articoli a lui personalmente sgraditi, eppure la Costituzione svedese sancisce piena libertà di stampa. Madame, il re viola la Costituzione. Sapete che cosa significa?» Oscar era pallido di passione. Io domandai, sommessa: «Ma vostra altezza non è per caso contro suo padre?» «No, altrimenti tutto ciò non mi agiterebbe così, madame. La politica estera di mio padre ha dato alla Svezia una posizione in Europa che nessuno riteneva possibile. La sua politica mercantile ha trasformato questo stato fallito in un paese fiorente. La Svezia deve a quest'uomo la sua libertà, ma nello stesso tempo quest'uomo osteggia qualunque corrente liberale in Parlamento. E perché? Perché Sua Maestà pensa che il liberalismo può condurre a una rivoluzione e qualunque rivoluzione costerebbe a lui la corona. Di rivoluzioni in Scandinavia non esiste neppure l'ombra. Non vi è che una sana evoluzione, ma questo un ex giacobino non può capirlo. Vi annoio, madame? Io scossi il capo. Siamo arrivati al punto che alcuni, solo pochi isolati, madame, non un partito, penserebbero di proporre l'abdicazione del re a mio favore. Oh, questo non lo dovrebbero neppure pensare, e tantomeno dire, altezza, bisbigliai io con le labbra tremanti. Le sue strette spalle si piegarono in avanti. Sono stanco, madame. Volevo diventare un musicista, un compositore. Che cosa ho fatto? Due o tre canzoni, due o tre marce militari. Ho incominciato un'opera e non trovo il tempo di terminarla, perché non soltanto devo adempiere i miei doveri di principe ereditario e di generale d'artiglieria, ma devo anche fare continuamente opera di conciliazione. Io, madame, io devo far comprendere a mio padre che la rivoluzione francese ha causato mutamenti anche in Svezia. Papà dovrebbe accogliere dei borghesi invece di lasciare tutte le cariche di corte soltanto alla vecchia nobiltà. Papà dovrebbe cessare ad ogni apertura del Parlamento di tenere un discorso sui suoi meriti di condottiero e sulle grosse somme del suo patrimonio che ha sacrificato alla Svezia. Papà dovrebbe... Non potei resistere più, dovetti interromperlo. E questa Koskull? Oh, non credo che abbia mai fatto di più che cantargli qualche canzone. Quantunque, in fin dei conti, papà era un uomo nel fiore degli anni, quando è incominciata la sua solitudine, no? Per di più, aveva l'idea antidiluviana che i primi reali debbano essere iniziati nell'arte dell'amore da amanti esperte e provate per una e anche due generazioni. Madame, recentemente mi ha spedito in camera la Koskull a mezzanotte, armata di chitarra. Le intenzioni di vostro padre erano buone, altezza. Fece un cenno di diniego. Ah, mio padre si rinchiude nel suo gabinetto e non ha più alcun contatto con la realtà, gli manca... Si interruppe e colmò di nuovo i bicchieri. Aveva sulle fronte delle righe diritte che ricordavano Gian Battista. Lo champagne aveva un sapore un po' svanito. Quando ero bambino, madame, volevo a tutti i costi assistere all'incoronazione di Napoleone. Non mi fu concesso e non so perché, ma mi ricordo che mia madre, mi stava accanto nella mia camera di bambino, mi disse: Oscar, andremo a un'altra incoronazione, tutti e due. La mamma te lo promette. E sarà un'incoronazione assai bella, più bella di quella di domani. Assai più bella. Sì, madame, ho assistito ad una incoronazione, ma mia madre non c'era. Ma voi lasciate cadere delle lacrime nel vostro champagne. Vostra madre si chiama Desideria, la desiderata. Forse allora non era desiderata. Non desiderata? Mio padre la fa proclamare regina di due bellissimi paesi e lei non ci viene neppure. Credete che un uomo come mio padre sia adatti a pregarla? Forse vostra madre non è adatta per essere regina, altezza. Sotto le finestre di mia madre il popolo di Parigi ha acclamato Notre-Dame de la Paix perché ella ha impedito una guerra civile. Mia madre ha tolto a Napoleone la spada. No, gliel'ha data lui. Madame, mia madre è una donna meravigliosa, ma è ostinata almeno quanto mio padre. Io vi dichiaro che in Svezia la presenza della regina non è soltanto desiderata, ma è anche urgentemente necessaria. Se è così, la regina naturalmente verrà, dissi a bassa voce. Oh, mamma, sia lodato il cielo, mamma, e adesso togliti una buona volta il velo che io ti possa guardare in faccia, guardare, guardare bene. Sì, sei cambiata. Sei diventata più bella. I tuoi occhi adesso sono più grandi e il tuo viso è più pieno e la tua fronte... Perché piangi, mamma?